all'estero e quindi me l'hanno portata anche in ritardo. E adesso manca solo il microfono e andavo bene. Perché se mi fate sentire anche da Alghero e posso correre. Oh ragazzi, dai, ci sentiamo dopo che sono uscito per andare a lavoro. Ciao! Ciao Jay, ma parli al furgone? Sì. Ok, a dopo. Oh, Alghieri, prova, vabbè, c'era Ruggero che ti voleva sentire, là, ti sei spostato, ti stavo chiamando. Niente, sei andato adesso, ora ti dico, ti posso dire niente. Magari mi mandi un messaggio, dai. No, è per fare una prova con coso, con Eugenio, capito? Ah, ok, ok, vabbè, dai, sì, magari la prossima, non c'è problema. Vabbè, niente, devo passare anche anch'io, ragazzi, mi saluto tutti perché devo andare su, ho urgenza. Saluto la tutta la nuova, poi ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Angeli, dai, comunque, ottimo lavoro, bravo, alla prossima, ci siamo qua noi comunque, avanti Erika. Ok, l'ultima parte ti avete detto che mi sono distratto un attimo, se potete riepilogare. Che sta chiudendo Angelino, la saluto. Ah ok, ciao Angelino, a più tardi. Ok, Claudia, ma che microfono stai usando? Ma è troppo alto, forse dovresti fare qualche regolazione, c'è tutto un bel forte, ma è un bel rimbombante, abbassa qualcosa. No, abbassa, un bel forte, è vero Rica? Sì, è un bel forte. Però abbassano troppo? Anche troppo bassa, la volta appena appena. Ma i toni a quanto sono? Spingi un po' il microfono, ti rende la voce un po' rimbombante. Vero Claudio, ma guarda che a casa non c'è, boh, cantali tu o ascolti a Muros? Boh, qui no, ce lo riprendo, Marco ci sei? Eia, il mio pensiero lo sai, no? Cioè, alla fine non stai cambiando niente, cioè stai passando da un apparecchio uguale a uno uguale, cioè... Ma è nuovo però, capito? È nuovo. Ma nuovo di quante decadi, di quanti decadi ti ho detto, no? Cioè io personalmente no, per quanto poco costi no, mi dispiace. E se sapessi lascia perdere. Marco, allora, il discorso mio è che sono puntato su un apparato digitale, ok? E più, a me piacciono di più gli apparati quelli di vecchia generazione, no? Questi con lo smitter analogico. Quello lì è abbastanza nuovo, cioè un 3009 costa quasi 200 euro, quello è un 3006, che siamo quasi, mi si avvicina molto un apparecchio, perché si vede che come cosa uguale, è uguale, c'ha meno canali, ma chi se ne frega, ma come cosa si vede uguale, uguale identico, come l'altro che è nuovo, non c'è un graffio, vedi un po' la differenza. Eia, però conta che ne so, sono connessatori che hanno lavorato tutti quegli anni, cioè tutti i componenti sono vetusti, magari funzionanti, vabbè, non lo so lui, io te l'ho detto, gira sono arrivato a pensare sia per i rosmi, per i baracchini, o nuovo o niente, cioè allora piuttosto rinuncio. Vabbè. Poi può darsi pure che sia perfetto mi anche come funzionamento, però io dei venditori anche di Roger K, io un ordine ho fatto, un ordine puntualmente non funzionava in trasmissione, un apparecchio. E poi il venditore, ma strano, qui funzionava, le solite cose, ce le spedisci indietro, ti rifiuta il pacco, te lo rimanda indietro, capito? Lo so già come va a finire. Quindi roba vecchia, niente più. Non mi interessa, tanto mi. Anzi, ne ho regalati pure di baracchini, ne ho venduti e regalati anche, tutta la roba in più. Va bene, dai, discorso già fatto, non voglio assillare chi sta ascoltando. Vediamo chi è rimasto. Riprendi Chiodo Rogito da Muros. Marco, tu lo ascolti. io non ho l'orecchio allenato, comunque viene avanti, ma il nome è vero, qual è? Il nome è proprio. Ehi, fammi un bel passaggio lungo. Sì, non è male. Diciamo, ha abbastanza toni bassi. Il microfono è detto dovrebbe essere a 2 il tono. Sì, guarda, anch'io lo usavo a 2, dietro consiglio dell'altro Claudio, con l'MB più 5. Però a orecchiometro a me piaceva, personalmente ha messo il tono a 3. Capito? A 3 ti dà toni appena più acuti, a 2 te li dà più bassi, ma non che sei cupo, assolutamente. Cioè la radio è buona per me, poi non so per gli altri. Riccardo, secondo te com'è la modulazione di Chiodo Arrugginito? Vai. Già va bene. Anch'io avevo problema con i toni perché avevo messo tutto al massimo il gain e i toni al massimo quando avevo le MP5. Poi Claudio mi ha detto di regolarlo e di provare a metterlo a 0, e a 0 andava bene, lo proverò a fare anche nell'altro che deve arrivare. Comunque Claudio, ti volevo chiedere, capito, ma da quanto è iniziata questa quando è iniziato? Da quanti anni sulla banda 27 CD? Sì, eccomi. Eccomi, sì, quindi la radio qua va bene. Diciamo questo baracchino ha dei toni leggermente più alti in ricezione, no? Quindi qua va bene. E comunque Riccardo, l'MB più 5, io ero convinto che lasciandolo con i toni a metà fosse una cosa bilanciata, no? Né troppo alti né troppo. Invece l'MB più 5, se non metti i toni a bassi verso il 3 e il 2, è molto molto acuto, molto, proprio fa la voce fine, mancanza di bassi. Invece l'MB più 4 nasce già più equilibrato, non è la regolazione dei toni ma è già perfetto di suo. Infatti c'era un periodo che volevo prendere anche l'MB più 4, però alla fine io poi, in sostanza, microfoni da tavolo non mi ci trovo bene, non mi piace usarli, mi piace il mic palmare e ho lasciato perdere tutto. Chi altro è rimasto qua? Luca, adesso rilancio te perché io devo andare a tagliarmi i capelli, tagliarmi la barba, poi mi devo fare la ceretta. Ehi, c'è Eugenio Santiago 5, dai, ciao se mi senti. Ti posso rilanciare adesso? Chi c'è rimasto? Natalino, ci sei? Dai, che io mi devo assentare, che mi devo tosare. Allora ne parlo io, visto che Natalino, scusatemi. Saluto il re di Porto Torres sulla sua limousine. Là, ricordi, con la mia limousine sta andando. Con il mio furgone da Zingaro, è più bello. Ok, cambio per Luca. Luca, ci sei ancora? E se mi stanno per me, ragazzi, io riprendo tra un po'. Cambio! Ok, ciao Eugenio, a più tardi. Là, sono qua al distributore, vai. Adesso faccio la zona e riprendo subito. Accorretti anche da parte mia, dai, che devo davvero tagliarmi la barba, tagliarmi i capelli. Ciao a tutti, ciao. Ok, io resto in ascolto e aspetto se rientra qualcuno. Aspetto, Lindo, mi ascolti? Io ci sono. Sì, dico, ci sono. Bene, che c'è rimasto in frequenza? Ho capito, Eugenio sta rifornendo, Luca... Marco è andato a vestirsi e non è rimasto nessuno, tranne i tre. Siamo rimasti in tre. C'è anche Roberto, è andato su 15. Avanti il break, chi è qui? Chi ha breccato? Andando a raccoppare le gomme di nave, cambi! Capisco, ti è rimasto sul 10, però lo senti sempre a cosa, come si chiama, Eugenio, il re di Porto Torres, non mi veniva il nome, e lo so, nel furgone, sta andando a lavorare. E ok, siete come modulati, ho capito la parte del discorso di Claudio, ripeti un po'. Claudio Ruginoso. Claudio Ruginoso, cambio, buonasera. Guarda le due parti, molto basso, cambio, porto ferro, città del ferro, città della ruggine. Ok, no, ho dato così perché viene più spontaneo, me ne dimentico il tuo nominativo e mi viene alla mente tutto quello. Ok, ma tra quanto arrivi? Tra un po' devi mollare? Tra un po' io inizio anche, dovrei essere già la prova. Ma da così, dovrei essere già la prova. Ho capito. Non vieni prima alle 6. Ok, ti volevo chiedere, ma conosci Costantino Calaresi? È amico di Babbo. E ho capito, cambio per Muros, che è stato sempre basso a Eugenio. Molti hanno iniziato a lavorare, poi ci sono quelli tigri, non faccio nomi, Gianni Doppio Room che dorme sempre, e poi vabbè Roberto lavora fino a tardi anche, e ci sono anche altre persone che stanno facendo altro. Gianni! Proprio che forse dalla voce si conosce. Allora Gianni era qua, dai, mi ha fatto un baracchino, volevo mettere uno spinotto. E sta andando a casa, porta l'erca e poi entra. Ok, riprendi Luca che ti stavo chiamando prima e ti sei allontanato. Sono uscito a porta l'erca, adesso volevo piantare uno spinotto in un baracchino, dai. Aspetta. Come l'hai sentito per un tu a Eugenio che stava andando al lavoro? Sì, no, adesso no. Dai, riprendo subito, se no qua non le capo piede. Arrivo subito, Non ho capito niente, vi siete sovramodulati voi due, Claudio e Eugenio. Ok, ha detto proprio che forse dalla voce si conosce. Vabbè, riprendi tu e poi facciamo passare a Eugenio che tra un po' se ne deve andare. Eugenio, riprendi, ha detto Claudio. Da Giovanni Carbone. Come lo conosce? Veterinario. È amico di mio padre. Antonio è amico di mio padre. Il padre è falegname. Eugenio ha detto proprio che ha bazzicato per anni a Porto Torres, e per questo si conosce a tutti. Quasi una sessantina di anni. E non c'è da niente, forse anche per quella questione delle Aile Harley che siamo potuti vedere anche un rabbino. A Gavino Face, lo conosci? Face, il calzolaio. Potrebbe fare altre mille nomi, conosce tutto a Porto Torres. Eia. Allora Marco Stecchi, dai, iniziamo. Per le moto. Aveva anche macchine americane. Sì, aveva un pick-up Ford americano. 25 anni fa. Eia, e ok, ti saluto, visto che stai andando a lavorare, vado un attimo in QRX. Vabbè, tutti spariti. Ho fatto una voce, ero un giorno di oggi. E c'era l'apertura delle buste di una gara d'appalto. È l'apertura degli apparecchi. Li ho visti. Sono passato, visto che ero. Ho chiamato se c'era, se no dovevo andarci sabato, capito? Visto che stavo andando. Gli altri sono uno schifo, tutti senza manopole, tutti fasciati. Una manco accende, ho detto no, tieni, te non mi interesserà mai questa. Nuova. L'ho provata, esce molto molto bene. Ma qual è? Quella che sembra un'idea? No, non sembra un'idea. Ehi, quella lì, quella grigia. Mi sembra un'idea all'inizio. E io invece ho lavorato un vecchio microfono oggi e devo mettere in macchina la 48 Plus. L'ho modificato il microfono, poi l'ho fatto a Luca a mettermi l'attacco perché con quell'attacco lì non posso usarlo, se no. L'ho modificato sopra l'altro attacco, l'ho provato dagli altri apparecchi e va un bel bene. Adesso voglio vedere se sul Milan va bene. Se provo, magari va bene. Sì, quella foto che ti ho mandato. Hai visto che bello? Bello. Sento che l'ho voluto, maledetto io. Ma a me mi interessava il Simba, ma non manco accendi. Manco accende, buttato in una cantina, ero detto ti devi solo vergognare, cazzo. È Royce, non è Royce? Sì, me ne è Royce, ma tutto rotto già. Tutta la cassa spaccata, c'era roba sopra. Era senza manopole, il vetrino dello Smith è rotto. Ho detto no, per il Dio. Io già lo sai che non è servuto, non voglio manco un graffietto. Sono fatto così, sono pignolo per natura. Ma tu sei meno pignolo di me sicuramente, guarda, io già non stavo prendendo manco questo perché c'aveva un graffiettino, poi mi sono accorto che è sotto, nel coperchio di sotto, quindi non si vede, vabbè dammi, va, perché sopra è tutto a posto, bello, è tutto verde, tre strumenti, devo mettere due lampadine perché una solo funziona degli strumenti, devo mettere due lampadine però sono di quelle a innesto, quindi non ne avevo, domani mattina le compro la fusione e gliele metto, ho già visto dove vanno, facilissimo, a toglierle e metterle nuove. Vabbè, adesso vediamo se ne trovo qualche donato e poi basta, sono già rotto le balle. E quelle a 12 sono, quelle piccoline? Sono quelle a 12, però sono a innesto, capito? Ti ricordi quelle che si usavano nella macchina? Quelle a innesto sono. No, io ho quelle a 12 piccoline col filo già attaccato, dovrebbe essere quelle. No, questo senza filo, c'hanno il portalampade. Allora no. Cazzo, la fusata sono andata a prendere uno spinotto a 6. Oh, non ha cercato che non ne aveva. Te cerco, vabbè, se ce l'hai che mi serve. L'ha cercato, ricercato e ne aveva due soli. Sì, bastava dire, no, ce l'ho io, sì. Ce l'ho io, sì. Già attaccato a un connettore pure. Ho già attaccato a uno spezzone, non so boh, chi me l'abbia fatto, perché cosa era, non lo so, io baracchini a 6, non mi ricordo di averne mai usato, boh. Non lo so, ma era dentro il cassetto. No, sono quelli già che hanno già il portalampade e tu sfidi la lampadina come quelli della macchina e li metti la lampadina e a 12 volte sì, però sono quelle piccoline a innesto, non sono quelle con i fili, ce li ho bianche, ce li ho rosse, ce li ho verdi, ce li ho blu e ne ha i lampadini, però sono tutte con i fili, capito? Tutte con i fili e il polman l'ho fatto tutto blu. Va bene, non c'è nessuno? Oh, io sto trovando un attimo che mi prendo il telefono, non sa che mi chiami, non mi trovo, c'è un borsello che sono uscito in macchina per andare a fusare, me l'ho portato appresso. Io già sono qua, vai. Rieccomi! Cosa? Ho detto rieccomi, sono tornato. Chi era quello? Antonio, tu sì. E Tardino ha messo l'antenna. Arriva 9 più 10 abbondante qua. Meglio così, dai, così almeno lo sentiamo, cioè io lo sentivo sempre, sentite voi, io lo sentivo sempre. Sì, ultimamente stava arrivando bene anche qua, Santiago 8, arrivava benissimo. Adesso arriva 9 più 10 abbondante, dai, quasi 9 più 15 arriva. Che antenna ha messo? Mi sembra tipo quella di Gianmarco, boh. Mi ha detto che si è attrezzato a Chiangerino. Lì ha montato la mappa, va. Montato la mappa, va. Lo devo mandare domani. sono stato, ma non mi ricordo dove, lo sa. Dove c'è l'aeroporto militare? Poi c'è l'aeroporto militare. Per andare a Capocaccia, cioè a Capocaccia Porto Conte, devi girare prima l'aeroporto militare a Fertilia. Allora si fa tutto il rettilineo per andare all'aeroporto, poi si va verso sinistra, mi ricordo. Si conferma, abita qualche chilometro prima della campagna di mia sorella, ma si conoscono anche con mia sorella. Che bello, mi sono sdraiato 5 minuti, sono stanco morto, ero appeso col microfono tutta la sera. Ho fatto un po' di lavoretti, adesso l'ho provato, cazzo, ascoltare le cuffie e la bomba. No, io la stamattina alle 8 in movimento, ho fatto 100 andare, 120 andare, 120 a tornare, e poi tutta la mattina impegnato, ho detto c'era una gara rapporto a Olbia, e quindi sono rientrato dopo pranzo, abbiamo pagato lì, dopo pranzo, ci vorrei due ore, 4:30 a casa. Sono fatto una bella doccia, mi sono seduto un po' a riposarmi, non sono stanco molto, mi sono fatto alle 6 stamattina. Ma finita avete di Aulia? No, ancora no. No, c'era una rapporto stamattina, aprivano le buste, capito? Non sperare a Matteroli. Per la manutenzione, capito? La manutenzione hanno, abbiamo preso. Noi trattiamo i primi e secondo la Olbia, però sicuramente facciamo un atti, un'associazione temporanea d'impresa, per essere un po' più, per fare i primi lavori. E vabbè, ci fa fatto la latte, una parte. Sì. Adesso vediamo di fare i conti, mio cognato, vediamo un po' se conviene, perché sono 120.000 euro all'anno, capito? Sono 10.000 euro al mese. E voi non ce la fate col vostro personale? Sì, non ce n'è problema, è che io sì, non sono di Olbia, capito? Quindi per poter lavorare tutti i giorni devi per forza prendere almeno due di Olbia e ti costano di più. Però a vedere, adesso si vedrà, dai. Tanto abbiamo 60 giorni di tempo per verificare tutto oppure rinunciare. Ciao. Ma che presa voi la gara, ve l'avete aggiudicata a voi? Sì. Ah, gara, andate. Oh, e quindi questo qua ne aveva belli a Parigi? Un 5-6 ne aveva già, però uno non si invia, l'altro si vuole arrampare. Gli ho detto, ti devi vergognare. Aveva quel Simpson, 40 canali, base, con la cassa in legno che non voleva visto. Cassa non ce n'era più, secondo me si hanno mangiato i topi. Che schifo, no, te l'ho lì la roba, non mi piace. C'è che te non sa bene. Oh, già! Dimmi. Ho chiesto, dai, per quanto riguarda il coso, la connessione al microfono, perché stavo pensando che mi sarebbe quello da... che saranno uguali, secondo me, del baracchino che c'ho io, là. Allora, controllo, aspetta. Ciao. Che baracchino è il tuo, Luca? Lo dico subito. Luca. Oh, dimmi, cla. Che baracchino è il tuo? Alla 42 Plus. Anche quello di Gianni sono uguali. Sì, ma io ho un microfono normale, capito? Dovrebbero essere uguali. Ma sono quello là. Cara gara. Luna rientrata, e cazzo me la bagiene, Luna. Prima si è fatta accarezzare, da lui siamo già bagiati. È diffidente quel cane già. Anche a me quando c'è un cane che va a accarezzare mi abbagliano, perché sono diffidenti. Il mio invece che abbagliare musica, è diverso. Però è diffidente anche lui. Ma se non ti conosce è meglio che non lo tocchi. Può cantare tu la sono. E a Tattalino. E me era lì, Piusi. E ancora non mi hanno ammazzato. Già c'hai tutto l'arsenale. Non ti ammazzare così facilmente. No. La gamba pigliata nazionale ma ne gli ha fatto secco. Sì, addirittura. Curva. Stava rubacore. Col fucile al fuoco. Questo velocità veloce. Ho detto Luca, ma non ho capito, ma è tuo quel baracchino, te l'hai comprato oppure quello di Gianni? È di Gianni. Ah, non te l'hai preso tu ancora? No, no, lo sto contrattando per un 3006 nuovo, senza un graffio. Ma quanto è lo spedito? 3006, 360. 3006. C'è scritto 3006. Ma c'è, se 3009 è 3006. Ma no, io ho il 360, è uguale a 3006. Va bene, ciao, anche Natalino, buonasera. Comunque le condizioni dovrebbero essere uguali, no? Mi sembra che siano uguali. E adesso provo, là. Fatto un stand by per me, che devo consegnare anche un televisore. Lasciate che me lo metto anche davanti alla porta, là. Un attimino, così devo consegnare, ma non devo la mettere. Ho sistemato, arrivo subito. Via. Avanti, tappa off. Via. Siamo qua. Mamma mia. Cazzo, qua in uno stato pietoso mi stai pigliando la paranoia, cosa c'hai? Sta pigliando la depressione del resto, no, non può sì, sta sempre sarrato qua. E quello io me lo sto mettendo in macchina, lui parlo dalla macchina e mi dice non batteci dentro. Ma se ti fermano che scusa trovi? Nessuna scusa, sono uscito a fare una passeggiata. Che imparo? Ah, cosa, c'era al quadrato l'altro giorno parlando, vedi la Claudia. E c'era il posto di blocco davanti a me. Aspetta, ne filmato. Guarda che ancora ci vuole l'autocertificazione. Fino a lunedì. Lo so, me la fanno loro, me la danno loro perché non c'ho stampante, a casa non le posso fare. Infatti lo stanno filmando, perché se ti fermano ti multano, se non hai una giustificazione perché sei fuori di casa. Vado a fare la spesa dalle. Cosa hai detto già, scusa? Sto andando a fare la spesa dalle lì, come ho fatto l'altro giorno, non c'era nessuno, sono andato dalle lì, ho fatto la spesa e ho anche risparmiato. Mi sono meravigliato quando sono arrivato a casa, ero pieno di roba, ma ho fatto 30 anni in cui io. E ho preso un po' di roba, sofficini di merluzzo, che cos'è la pizzaiola, tutte queste cose qua. E ho preso un pane, una padella, ho preso un po' di roba. I da LD è conveniente, anche più di Eurospin. Mi Franco va lì, infatti lui da Franco. Guarda, ci risparmia un bel. Ma ne sono accorto Natalì, perché quando sono arrivato alla casa mi sono meravigliato, ho preso tre buste di roba, tre tazze di cuir, sia da Milano che tre buste di roba, stamattina ho pagato più di 50 euro. Ma ogni giorno vai a fare la spesa? No, la grossa la faccio a fine settimana oppure lunedì. Poi le altre cose, quello che mi manca per dire, manca il detersivo dei piatti, vado, ne prendo due, tre e le metto sotto la lavandina. Già di posso dire, manca il detersivo per la roba, vado e compro quello. Quelle le cose che mi sono dimenticato e di solito prendo. Però la frutta la consumo molto spesso. Sì, ma per il detersivo abituati ad andare da acqua sapone, che risparmia ancora di più. Invece di bigliare alle Osmi e alle LD. Noi andiamo l'acqua a sapone, si fa l'elenco, tre sciampi, tre balsami, tre bagnoschiuma, detersivo per la lavatrice, detersivo per i piatti, detersivo per lavare per terra, igienizzanti, tutta l'acqua a sapone per la mia figlia. E risparmi ed è roba buona. È roba di marca, l'acqua a sapone vendono roba di marca. Io solo che poi ci rimetti in benzina, chi si risparmia che cosa, devi andare lontano a prendere, non mi sono messo qua qualche negozio tipo lo spin. Invece sono tutti cari, quando entri qua ti spennano, ogni volta sono più di 100 euro che li lascio. Ma sta andando ti conveni, e lì non ci metti più piede, l'altro ci vuole. O prendi solo il minimo indispensabile, e cioè la roba che ti dimentichi. Ma tu già lo sai perché vado lì. Sì, ha già compreso, ma non farsi. Onda te mia, onda della mia. Oh già, ti stavo dicendo. Tiro di Zelli. Questa cantina, tu forse Olga la conosce, all'uscita di Olga per andare a Racchena. Sono quelle case vicino all'aeroporto, là lì, quella zona. È il figlio di un pescatore. Questa cantina, un fiago, tutta piena di rezzi, di roba di mare, tutta aperto questo mobile vecchio, tutto pieno di biuvare, ragazzi. Io me ne sono accorto subito che lì dentro c'erano topi, ci sono topi lì dentro. Perché ho visto il legno del mobile un po' rosicchiato, gli ho detto, sarà. No, mi sono qua dentro, custoditi, cazzo questo mobile, devo avere il radio, per carità. La cassa di questo precipizio non c'era più, all'atto era tutta mangiata dal topo, tutta rosicchiata dal topo, perché è trucciolare, capito? Tutta rosicchiata dal topo, sopra non voleva vista, insomma gli no, questa toglierà, non mi interessa. Poi l'altra, ha tolto il Simba, non so quanto bella con la radio, era tutta senza, ci mancava la manopola centrale che è grande quanto è quella del 440, sembra un VFO, tutta cromata, e non c'era, ci mancava quella, poi ci mancavano altre due pomelli dei potenziometri, dello squelcio e del volume, il vetrino dello smitter era rotto, l'hai già detto, anche questa la puoi accantonare, ma no, te la metti a posto, te la vuoi mettere a prezzo, toglia, non mi interessa, non mi interessa. E poi ha tolto questa che ho preso, e ho visto che era abbastanza enorme, un po' sporca, vabbè, fammi vedere, prova, si accende, e io andiamo a casa, c'è un alimentatore, l'ha accesa, vabbè, rischiamo, accende, perché antenna non ne ha, rischiamo, gli ho detto, vabbè. L'ho dato una pulitina lì veloce, ho visto che già è in perfetto stato, quando sono arrivato a casa l'ho tutta disinfettata, tutti i coperti, lavati, igienizzati, tutta pulita, l'ho fatta nuova, già visto la foto, l'ho accesa, ho detto mamma mia che culo, e funziona, meno male che funziona, ci sono solo due lampadine dello Smith bruciate, te l'ho detto, e le stavo cambiando, invece ho visto che sono diverse, e allora domani mattina le compro. Fortunata, ma tu devi vedere, dovevi vedere questa radio qua, una cosa gli tu ti dici, perdonami, ci conosciamo poco ma ti devi vergognare, queste sono radio che valgono un capitale, un patrimonio, sono bellissime, allora, te le avrei comprate tutte e tre te le avrei prese, però no, io Mondetta non le voglio, ma te le do, te le metti a posto, non le voglio, te ne dì, cazzo dove avrei da me roba mangiata dai giochi, e dentro come sarà? Ma i due apri a Trento, magari avere un unico di rigiuri. Ecco. Registrato. Va bene, avanti Beck. Ciao Claudio, ciao Gianni, Natalino, Luca e poi non so ancora chi c'è in ascolto. Ok, buonasera a tutti. Capo del Rosmetro, ciao Massimiliano, buonasera, ben ascoltato. Ben sentito. Ok, c'è Gianni che l'ho rilanciato, l'ha ripreso, Luca che non so, stia facendo, e Natalino, per il momento non c'è altro. Ciao Massimiliano, ben entrato, buonasera. Ciao Massimiliano, buonasera. Ehi, ciao, buonasera a tutti. Qua, ti puoi spostare due secondi nel 20? Sì, ok, un attimo, arrivo subito. Beh, Gianni Chiedu. Ehi, non ti sei mai sentito in vista, guarda, come ti va? Che voglia, qua non ho voglia neanche di parlare al baracchino, qua troppo così annoiato, cazzo, no, figurati. Allora io già sto andando a fare le commissioni, l'ho da Fusano anche poco fa, per prendere uno spinotto, se funziona rimetto a posto il microfono del originale del corso della 48 Plus, mi sta mettendo Luca, adesso vediamo se riesce a metterlo, perché ha sei entrate, sei pin, uno io dovrei averlo di quelli in campagna, c'ha un tasto rosso al centro e poi c'ha l'up down, però non lo so quanti attacchi c'ha, è quello, bisogna vederlo. Vabbè, ma quello che ho io è pompato, capito? Fa forte. Vedo che c'è un video cazzo di baracchino, mamma mia, cazzo, non lo busso, vi dico. a fotti di trattarissimo. E che tasso? E che tasso ancora? E che tasso ancora? Ui, ui, ui. Sempre con visto. Ne ho altri, questo qui so, me l'ho comprato apposta, se no manco la concessione mi potevo fare, perché no, non ne avevo pagato e quindi era decaduta, me l'ho rifatta nuova, e ci vogliono questi, bene, che non avevo cavolo di fare. Se avevi saputo mi avevi bigliato un cobra, ragazzi. Almeno penso sarà migliore in ricezione e tutto. Questo è un amplificatore, poi va un cacchio. Perché non ci sono schemi, non sai dove è la elettricità. E poi non lo vuoi educare manco, perché sennò perdere l'omologazione. Lo devo lasciare così per forza. Lo sapevate che siamo rientrati, che hanno cambiato l'interfazione del coso, del conto corrente per la banda cittadina, no? L'interfazione l'hanno cambiata dal 18 di febbraio. E perché tu come lo stavi facendo prima? Cosa, Cla? Come lo stavi intestando prima? Io l'ho intestata sempre come tutti gli anni, l'ho pagata a gennaio come si paga, però dal 18 di febbraio hanno cambiato l'intestazione, ok? Io ce l'ho già in fotocopia qua. Infatti Gigi era andato a pagarla con l'intestazione vecchia e non gliel'hanno fatta pagare. Ha chiamato a Cagliari, gli hanno mandato l'intestazione giusta, è andato alle poste e ha pagato. Io ho pagato la prima settimana di gennaio e me l'ha accettato, quindi l'intestazione ancora non era variata. Sì, ma ho detto qual è l'intestazione che è nuova. Vediamo se io ce l'ho già. Non ce la puoi avere perché è uscita il 18 di febbraio. Te la mando WhatsApp e te la giro WhatsApp, ok? Riprendi già. Mandala anche a me, ma sì. Ok, va bene. Io sia quella della Rimattore che quella CB, sempre tesoreria provinciale dello Stato Cagliari. Cagliari, senza via e senza niente. Il numero del conto corrente è sempre quello. Non so, comunque. Io l'ho fatto a gennaio, quindi pagato e pagato. Adesso il prossimo anno vuol dire vediamo se l'intestazione è giusta. Ah, mica il favello italiano, ti sto dicendo che ha pagato entro gennaio, c'è sempre l'intestazione vecchia, questa è uscita dopo il 18 di febbraio, ok? Sì, mandamela, voglio vedere se ce l'ho già, se me l'hanno già mandata, perché a noi come radioamatori ci mandano subito le modifiche, capito? Mandamela a vedere. Sì, non mi ricordo, sto cambiando. Io ve l'ho mandata, Gianni, te l'ho mandata e Claudio te l'ho mandata. Grazie, adesso io prendo un conto corrente e me la trasferisco, così almeno ce l'ho per il prossimo anno. Sarà pure a me, mi Massimiliano. Poco fa mi sembra di essere stato chiaro, perché o sono io imbecille, tonto e non capisco un cazzo. Io a gennaio avevo già questa intestazione, Ettore, ti mando la fotocopia. Ho detto poco fa che io a gennaio ho fatto il conto corrente alla tesoreria provinciale dello Stato Cagliari, ok? Mentre voi invece la facevate all'altra tesoreria. Ma sei uscita dopo il 18 di febbraio, come fai tu a avere questa qui, scusa? Allora, Gigi Vulcano la faceva uguale a noi, ok? È andata alle poste e non gliel'hanno accettata, casa a te te l'hanno accettata. Sei uscita il 18 di febbraio questa, come ha fatto a te casa averla già? Sei uscita il 18 di febbraio, scusami, Cazzo, avanti il vostro, la fotocopia, ti faccio la foto del conto corrente pagato e mi dici a vedere chi cazzo è intestato. Sto sempre bugiardo ogni volta, Ti ho detto che a noi le comunicazioni ce le mandano prima di metterle in atto, prima, hai capito? Ai radioamatori. E quindi c'è scritto anche questo sotto, tutto abbreviato così come è scritto qua. Mandami la foto, io voglio vedere. Massimiliano, ma anche mi devo scrivere anche Canci, Conci, radioamatori, eccetera, eccetera. Come c'è scritto in questo foglio, col puntino, tutto abbreviato. Come è scritto qua, deve essere nel conto corrente. Perché Gigi è andato a pagarlo, come lo facevamo noi, che non gliel'hanno accettato, ok? Quindi ha dovuto telefonare a Cagliari e gli hanno mandato questo. Ha compilato uguale a questo, è andato alle poste e gliel'hanno accettato. Poi, questo mi ha detto e questo mi sto dicendo. Cazzo, ti ho fatto una domanda poco fa. Quando tu facevi prima il conto corrente, lo intestavi alla tesoreria provinciale dello Stato Cagliari? Ok, domanda. No, no, non era così. Oh, e io ti faccio vedere, allora, tutti i miei conti correnti, questo è del canone concessione 2020 Radio Amatori S0 DFB, questo è del 2019, canone concessione Radio Amatori anno 2019, sempre tesoreria provinciale dello Stato Cagliari. Sto giocando, levate vostra fotografia, mica non mi comprendi. Poi lo mandavi a un'altra tesoreria e ve l'hanno corretto ai CB, a noi ce l'hanno già corretto da prima. Allora, ce l'ha dove Claudio, anch'io l'ho fatta a gennaio, poi non so se è cambiato qualcosa, mi stai dicendo che è cambiato a febbraio, comunque l'ho fatto alla tesoreria anch'io. Ma avete ragione. Ah, Massimiliano, l'ho fatto alla tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, se vuoi ti mando la foto anch'io. Allora, tu guarda il bollettino che è tu, se ci sono le stesse parole che ci sono qua, come questo foglio che ti ho mandato. Guarda, se l'hai compilato così, a me questo mi ha girato Gigi, e mi ha detto queste parole. Poi, così vi sto dicendo, e così, cioè, quello mi ha detto lui vi sto dicendo io, non di più e né di meno. Capito? Sì. Sì, registrato Roberto, sì, sì, è giusto Massimiliano, 21, 56, 50, 90. Giusto, tesoreria provinciale dello Stato Cagliari, sì, è giusto. Come con l'allenatore, il contributo, sì, è quello lì. Quindi hai messo tutto uguale a questo, sotto questo CAN puntato, CONCI puntato, tutto così l'hai fatto. Punto tesi, punto pronto dello Stato Cagliari, sì, certo. Sezione CCA, canone anno bollo per apparati CB PMR, canone anno 2020, voglio dire, ecco, così l'ho scritto io. Terza sezione Cagliari, sì sì, l'ho scritto così proprio. C'è stato un break, avanti. Buonasera, Lucky Fortunato, sono entrato per salutare la ruota. Qui Fortuna, me l'ho sparato, buonasera, salutone, ben sentito, avanti, va. Compagnia di Claudio, Massimiliano, Natalino, Gianni, e poi non so, dai, perché ho un po' l'ascolto, però un po' abbasso il volume, te ne lancio Claudio, vai. Sì, ciao Fortuna, buonasera, stavo mandando la foto. Questo Massimiliano è quello del 2020, quello del 2019 è uguale, quello del 2018 è uguale, hai capito? Sempre uguale, sempre tesoreria provinciale dello Stato Cagliari. Io non l'ho mai mandato alla tesoreria provinciale di Varese, o dove lo mandavate voi, sempre a Cagliari. Non mi interessa niente a me, sono tutti compilati così, te li faccio vedere, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, sempre la stessa cosa, non so mai tradotta questa gaggata che hanno scritto, cosa c'entra? Sempre tesoreria provinciale dello Stato, chi conta è il numero del conto corrente, ma non so meno a futti, e poi la causale, canone concessione Radio Amatore, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, io li ho sempre compilati così, ok? Ciao Fortunato. Ciao Claudio, riprendete voi perché lo sapete, io sono già arrivato qua alla base. Niente, mi fa sempre piacere rientrare anche per pochi passaggi per salutarvi. Un bacione, un abbraccio così alla bella meglio. Ehi, ciao Fortunato, buonasera, ben sentito, eh. Ok, gappa, va bene. Io ho sempre comprato così, non mi è mai arrivata nessuna multa, non mi è mai arrivato niente, tutto sempre procede bene. Tutto abbreviato, tutto. Conto corrente, il numero del conto corrente è alla tesoreria provinciale dello Stato Cagliari, c'è il mio nome attivo. Ok, avanti a chi tocca. Meglia, ciao Fortuna. Massimiliano da questa, dai. Buon rientro, buon tutto. Vai Gianni. Gianni non c'è, vai Natalì. E anche io l'ho sempre compilato così, Claudio. Tesoreria, provincia dello Stato, il conto corrente è sempre lo stesso. E così ho fatto. Ma allora, io o fa vedo italiano o fa vedo cinese. sbagliata, anche io l'ho sempre compilato così. Gigi quest'anno è andato, l'ha compilato così come lo compiliamo noi tutti gli anni, è andato alle poste perché è andato dopo il 18 di febbraio e non gliel'hanno accettato. A Ruboli di Cumpindio che non gliel'hanno accettato, allora ha dovuto chiamare a Cagliari, gli hanno mandato questa intestazione, ha preso un conto corrente, l'ha compilato con l'intestazione che gli hanno mandato da Cagliari, è andata alle poste e gliel'ha pagato. Se volete ve lo scrivo in italiano, perché forse l'italiano non comprendete voi. Quindi, praticamente, riepilogando, in più a quello che noi scrivevamo sempre, ok, bisogna aggiungere anche questa cosa che hanno scritto, questo stai dicendo. Ecco, bravissimo. Poi il numero del conto corrente è uguale. Anche io, ho visto, ti ho mandato la foto come lo compilo. Anche io lo compilo così. Però dal 18 di febbraio devi aggiungere tutta questa roba abbreviata, perché te lo sto dicendo, non gliel'hanno fatto pagare a Gigi alle poste. E quindi Gigi ha chiamato a Cagliari e ci ha fatto mandare questo indirizzo, perché non glielo accettavano le poste. Quindi dal 18 di febbraio, quindi il prossimo anno, noi dovremo compilarlo così, come questo foglio, tutto abbreviato. Io devo solo aggiungere, perché io nella causale del versamento scrivo canone, concessione, radioamatore e poi l'altro canone, concessione CB per l'anno. Bisogna praticamente aggiungere questo contributo ESER e basta. Bravissimo. Adesso me lo sto scrivendo, vediamo, contributo ESER. Ce lo mettiamo, va bene. Ok, grazie dell'info. Io comunque il versamento è sempre quello, canone, concessione, elevatore eccetera, bisogna aggiungere questo contributo ESER. Chissà che contributo è, non te lo so dire, Cla. Infatti quando Gigi mi ha chiamato, mi ha detto, cazzo, sono andato a pagarmi la tassa dalla radio e non me l'hanno fatto pagare. Ho detto, boh, strano, perché io l'ho compilata come tutti gli anni, uguale, precisa, identica. Ispettorato territoriale della Sardegna, bimbumba a Cagliari, boh, come l'avete compilato voi? Io però sono andato a gennaio, l'ho pagato nel tempo che si doveva pagare. Invece magari lui ha aspettato un po' e dopo nel 18 di febbraio hanno cambiato questo, hanno aggiunto due cazzate alla fine, abbreviate, e ci vanno messe questa cosa qua, tutto questo è, io non ho fatto pagare. Ecco, il contributo esercizio sarà. Ho fatto la foto, Natali, ho mandato la foto a WhatsApp, guardala, è avanti il break. Fortunato, no, mi voglio collegare al vostro discorso, se è possibile, perché qua io ho la ricevuta, perché io l'ho pagata. Fortunato, cosa vuoi ti dica? A me, io l'ho pagato in tempo, poi a me Gigi questo mi ha detto e questo vi dico, poi non lo so perché gli hanno detto così e non gli abbiamo detto così. Comunque lui è andato a farlo a pagarlo, non gliel'hanno fatto pagare, non ho capito il perché. Anzi, doveva pagare la sua e quella del figlio, non gliel'hanno fatto pagare. Quindi ecco perché ti dico che gli ha chiamato a Cagliari, perché noi come mai non gliela facevano pagare, tutto qua. E gli hanno mandato questa intestazione, lui questa intestazione l'ha scritta nel conto corrente, è andato, l'ha pagata, capito? Massimiliano, mettilo a 1.8. E ogni tanto c'hai un fischio, no, lo mettere a 2, 1.8. Ok, 1.8, ma forse ero troppo vicino qua. Non lo so, se sei in cuffia sì. No, niente cuffia. Lasciala 1.8, come ce l'ho io. A 2 ogni tanto fischio, fa un fischietto. Andare, abbassato, tutto a posto. Luca, vai Natali, riprendi. Aspetta che guardo a vedere se c'è qua su internet. Ma guardate là, la foto che ti ho mandato su WhatsApp. Sì, l'ho guardata. Ok, là. Doppio Runci, sì. Ma quella che ti ho mandato io, guardate là, la radio, Natali. Ti ho mandato su WhatsApp stamattina. Stavo guardando quello, stavo cercando il conto corrente mio per vedere se ha cambiato il numero. No, il numero del conto corrente non ha cambiato già. Certo, lo stesso. Vabbè. Ha cambiato solo quelle poche voci, dai, che ci sono in più, vabbè, ho capito. Sì, alla fine devi aggiungere solo queste due minchiate che hanno messo, che secondo me, boh, non lo so, basta lasciare tutto il mondo com'era e basta. Tanto, una volta che c'è il conto corrente, è l'ISUEM, non è che è giamba, eh. Infatti, mi sede via Brenta 16, 09122 Cagliari, numero conto corrente è TOT CBRA. Parentesi, intestato a Banca d'Italia, tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari. Massa. Eccolo qua su internet. KK, va bene, va bene. Addirittura io avevo i fogli della concessione, quella vecchia, vecchia, di boh, forse 10 anni fa, 15 anni fa. E quel ragazzo che gli ho venduto la radio, quello di Berchita, si sta facendo la concessione nuova e ha messo l'intestazione che ho messo io in un coso. Raccomandato, ha ricevuto il ritorno, tutto a posto. Altrimenti intanto fa un fischio quel coso. Bravo, l'ho abbassato, mi aiuto, è come prima. Boh, ma non so, io sento un fischio ogni tanto. Gianni, tu hai sentito il fischio? Sì, sì, l'ho sentito. Addirittura va, è pure più basso di prima. No, non devi mettere, io ce l'ho, guarda, guardandolo così in basso ce l'ho a 1,8, non ci arriva a 2, non fischia, 1,8. Ehi, l'ho lasciato come la prima, 1,5 io invece ce l'ho. E addirittura mi sono anche allontanato, boh, sarò quasi a tutto braccio. Non ci vediamo tanto a tutto braccio, rimettiti tranquillo e sereno. Non lo alzare molto perché... Perché? Quello là, no, quello sì. Ce l'ho a tutto braccio perché ho le gambe sopra il divano, mi non ho compreso. Sono nella sedia e le gambe sopra il divano. Via, va bene, lascialo così allora. Intanto va bene lo stesso. Ok, va bene, sì, bisogna aggiungere solo contributo esercizio, quello dell'esercizio sicuramente. Perché c'è scritto contributo, quindi esercizio. Vabbè, io comunque lo... Mi ho messo un fogliettino in mezzo al conto corrente per il prossimo anno, così io lo scriviamo e sono tranquilli, va bene? No, io c'ho il conto corrente già pronto. Lo scrivo su uno di quelli e lo metto in mezzo alla, alla concessione. Io ci aggiungo anche PMR, figurati. Io non aggiungo nulla. Non ho mai aggiunto niente. Metto solo canone CB per l'anno. 2020 in uno ho messo, mia truffa 12 euro, cazzo, non ti offrono nulla, 40 canali gaggati, 5 euro, cazzo, tutte le radio che vuoi, che schifo. Ehi, ma tu sei più in alto di noi, cazzo, tu c'hai un pezzo di carta in più, capito? Tu per forza non devi aggiungere niente. Vabbè. La patente di Ugamia, faccio, non tutta serma. No, sto dicendo che è schifo ogni proporzione, cioè 12 euro per la banda cittadina che non ti offre niente, nulla, capito? Limitati, non puoi usare questo, baracchini 40 canali, norma c'è, 4 watt, grazie, 5 euro per le bande amatoriali dove puoi fare quello che ti piace. Vabbè, dai, non tocchiamo questo discorso, Cla, perché anche un radioamatore, per stare nella 27 devi usare un baracchino con 4 watt. Quindi non è che, anche se c'è un pezzo di carta in più, giustamente, ma io non avrei fatto più neanche fatto fare neanche l'esame, avrei dato la patente a tutti i gatti e via. Sì, ma Massimiliano, non sei ben informato però. Infatti come mai io posso usare i baracchini che non sono norma C e tu devi avere la norma C? Perché noi in fase sperimentale possiamo usare qualsiasi tipo di cosa. Questo è il discorso che avevamo già e non lo voglio riprendere, Massimiliano, chiudiamola qua, dai. L'radioamatore è tutta un'altra cosa dal CB. L'radioamatore è nato per sperimentare le radio. Quindi in fase di sperimentazione posso usare questo 27, posso usare un Icon, posso usare il carro armato, posso usare quello che voglio. In fase di sperimentazione. Nessuno mi impedisce di entrare 27 a me con una radio HF perché sto sperimentando, sto vedendo, sto controllando le differenze, le cose, le capacità. Sto controllando, sto sperimentando, capito? È un'altra cosa. Io mi sto riferendo alla differenza che c'è tra 12 12 euro e 5 euro, capito? Cioè, si paga 12 euro per una tassa di concessione governativa CB che non ti offre niente. Sai cosa vuol dire non ti offre niente? 40 canali, 4 watt e boh. Mentre 5 euro la parte amatoriale, che è molto più vasta, questo ti voglio dire. Sì, sì, già ho capito, Clau, ho capito benissimo, a voi. È per quello che io non avrei più fatto fare l'esame a nessuno, capito? Avrei dato la patente a tutti, libera, libera scelta, capito? Avrei aperto tutto. Sì, sì, domani apri, domani. Praticamente è arrivato, ma tu lo sai che le recessioni che ci sono, adesso questa di maggio non la fanno, la fanno direttamente a ottobre se tutto va bene. Con chiaramente restrizioni eccetera, così mi stava dicendo questo collega di Olbia stamattina. Con le restrizioni eccetera, perché lui è del comitato regionale, quindi è informato più di me. Ma detto saltano maggio e faranno ottobre, e ottobre esempio mi scende già nel dorso. No, non ce n'è restrizione, no. Non regalano nulla, non c'è idea, non regalano niente, nulla regalano, nulla, assolutamente, è una cosa che si sta combattendo da tanti, tanti, tanti anni, ma purtroppo non vogliono mollare, hanno mollato quando c'è stata appunto la richiesta di annullare la telegrafia e quindi hanno unificato le patenti, un'unica licenza e patente, mentre quando li ho dati io erano due, capito? Erano due esami, dovevi dare la patente speciale e dopo sei mesi dare l'ordinaria, capito? Invece adesso è un esame solo, unico, di VDS0, prima diventare IWP0 come io e poi S0 quando dovevi dare l'altro esame, e lì hanno mollato, hanno unificato, ma mollare così dirò tutto, non penso che mogliano, tutti noi ci regnani, non so cosa ci vuole per prendere una patente da amatore o Massimiliano, 120 euro esame ci vuole, 120 euro esame, tu immaginati ogni volta che vanno ci sono 30 candidati, 40, 25, 50, dipende tutta la Sardegna, capito? Tu pensi che loro mollino quello che incassano? E poi un esame di Stato, non possono mollare. Non molleranno mai, beh giustamente, ma infatti non molleranno mai, però ci sono sempre meno gente che va a dare la patente. Lo so. Ci sarà meno gente, ballo non mollano, tranquillo non mollano, per incassare una barca di soldi. Una barca, se mi ricordo quando l'ho data io già si pagava in lire, si pagava 72.000 lire, 80.000 lire, fatti il conto tu. Allora bene che si marca la bollola, quindi ti metti a branca, te la metti. E quando l'ho attivato l'esame eravamo 130 persone, immaginate di due. Ma adesso è tutto cambiato, capito? Prima era un po' diverso, c'è qualcosina in più, adesso c'è da studiare anche in più. Non credo, no, domanda e risposta è più facile a quiz. Oh Massimiliano, lascia perdere. Quando l'ho fatto io l'esame, tre buste, apriva, chi vuole la 1, la 2, la 3, come te, noi per dire, noi eravamo già tutti d'accordo, la 3, hanno aperto la 3 e l'esame era molto molto facile, non era difficile. Però l'esame è di 4 ore, ok, a compito scritto, bella e brutta, come un esame di Stato quando ti stai diplomando, la matessa in goccia. Capito? C'era la costruzione di un alimentatore, mamma mia, me lo ricordo ancora, c'era capitata una frazione da calcolare a me, un'equazione a calcolare a me e a Torellai, poverino, ci mancava un'ora per calcolarla, un'ora invece avevamo buio. Infatti mi sembra che lui non aveva chiuso l'ultima quadra, però il risultato gli avevo dato, io ho detto scrivilo lo stesso, fai finta che ti sei dimenticato di chiudere l'equazione, però il risultato mettilo, me l'era passato lo stesso. Era molto più difficile, adesso è più facile. Già. Riprendete un secondo, mi devo allontanare. Gappa. Quanto ti arriva Natali? Riccardino? Ma arriva bene, adesso mi arriva bene, lo sento benissimo a Riccardino. Ma il segnale non l'hai guardato? 9:10 mi arriverà. E anche a me, poco più di 9:10 mi arriva, prima arrivava segnale 8. Prima, da lì deve fare il lavoro che hai fatto tu, tirare su, tirare su, tirare su, ci vuole un bel palo, fatto bene, un lavoro fatto bene. Bisogna che chieda aiuto, Sergio, bisogna andare, vedere.